I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Ci risiamo, i mercati ballano in sirtacchi. Prima le aperture greche sulla riforma delle pensioni e sulla riforma dell'IVA hanno riacceso le speranze, ma poi nel pomeriggio di ieri il capo dell'Eurogruppo ha provveduto a spegnere gli entusiasmi e a spiegare che in realtà il passo avanti tra la Grecia e l'Europa non è sufficiente. Si fronteggiano due piani di riforme, quello del governo Tsipras, che sta correggendo i saldi e stringendo i cordoni della borsa, e quello dei creditori, molto più improntato a quell'austerità che in realtà il governo guidato dal partito di sinistra Siriza non accetta per statuto. Entro il 5 giugno però bisogna che Atene rimborsi al Fondo Monetario Internazionale la tranche di 7,2 miliardi come previsto dal piano di aiuti concordato tra Grecia ed Europa. E sul tavolo dei negoziati di Bruxelles c'è ancora l'idea di un prestito ponte che possa sbloccare la situazione e dare tempo ad Atene di metabolizzare la cura di rigore finanziario considerata inevitabile dai partner europei. Intanto però il mercato è nervoso e non deve stupire, perché in realtà gli operatori scommettono comunque su un accordo e a pochi giorni dalla scadenza del 5 giugno riprezzano il rischio paese in tutta l'eurozona, su un livello però più alto. Così ieri i tassi sui BTP italiani sono saliti oltre la soglia psicologica del 2%, così come per i bonus spagnoli. È salito anche il tasso per i Bund tedeschi, che sono arrivati allo 0,70. Insomma, nel tira e molla di giornata c'è da segnalare che la BCE ha aumentato di altri 500 milioni, ormai a quota 80,7 miliardi di euro, la linea di liquidità d'emergenza, la cosiddetta ELA, destinata alle banche greche, che così avranno fondi per un totale di 3 miliardi. Poco in effetti, ma evidentemente quanto basta al governo per gestire un tira e molla fino all'ultimo secondo utile nella trattativa. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. 159.000 occupati in più in aprile, tasso di disoccupazione che scende al 12,4%, disoccupazione giovanile che scende con 946.000 ragazzi fra i 15 e i 24 anni occupati stabilmente nel mondo del lavoro. Sono segnali incoraggianti quelli che ha dato oggi l'Istat sulla ripresa dell'economia italiana, l'ultima delle grandi economie ad essersi agganciata a quel trend di recupero di forza dell'economia mondiale, partito dagli Stati Uniti, rimbalzato in Asia e ora finalmente si vede anche in Europa. Non è più soltanto la Germania che cresce, c'è anche l'Italia, grazie all'esportazione ovviamente e grazie soprattutto a quell'industria manifatturiera che è stata in grado di ristrutturarsi per essere competitiva anche su quei mercati dove l'euro in passato non ci ha aiutato. Certamente la congiuntura è ancora difficile, il caso Grecia non è risolto, il cammino delle riforme, come abbiamo visto anche dalle elezioni amministrative, è sempre più difficile e irto di insidie per il governo. Fatto sta comunque che se non si prosegue su questa strada, quella che sembra una luce in fondo al tunnel potrebbe diventare nuovamente un semplice abbaglio. E questa è l'ultima cosa che per l'economia e soprattutto per quei giovani che hanno trovato lavoro è lo scenario che bisogna regalare. A che fare a questo punto? Certamente andare avanti con il percorso di ristrutturazione dell'economia italiana, soprattutto agevolare gli investimenti dall'estero, quelli che possono creare più occupazione a un paese che ancora oggi soffre per aver perso quasi la metà della propria forza industriale dalla crisi del 2008. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.